24, i gialli della storia. Quel giorno, quel maledetto giorno, è stato l'ultimo in cui vidi qualcosa. Si trattava della cosa più orrenda, più terrificante che avessi mai visto. Mostravano sintomi sconosciuti e morivano uno dopo l'altro. Eravamo appena usciti dall'acqua, quando il cielo diventò nero. Ricordo solo un bagliore improvviso e una terribile esplosione. Il 6 agosto del 1945 la bomba atomica sganciata su Hiroshima ha cambiato per sempre la storia del XX secolo. Una realtà terribile che non deve essere dimenticata e che racconteremo attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e di quelli che hanno visto, increduli, quell'orrore sconosciuto. In quel momento a Hiroshima vivevano 400.000 persone. 100.000 sono morte il giorno dell'esplosione, 70.000 sono sopravvissute fino al novembre del 45 con sofferenze atroci, 30.000 sono morte dopo quella data. Sono più di 1 milione quelli che hanno subito i postumi delle radiazioni. E il nostro racconto comincia con la testimonianza di Herbert Sasson, che aveva raggiunto Hiroshima per realizzare una documentazione fotografica sulle conseguenze che aveva avuto l'esplosione della bomba. Rimasi stupefatto e senza parole quando il nostro treno, superato una collina, entrò nella valle di Urakami, dove era stata sganciata la bomba. E sulle colline restavano cumuli di rottami. Era tutto grigio. Sembrava che tutti i colori fossero scomparsi. Era tutto grigio e arrugginito. Non esisteva più alcuna traccia di bellezza. Non riuscivo a immaginare come avrei potuto fotografare questo materiale e sopravvivere all'impatto emotivo che aveva su di me. Riuscii alla fine a convincermi e a convincere gli altri che era importante che il resto del mondo vedesse quali erano state le conseguenze provocate dall'esplosione di questa bomba. Il calore provocato dall'esplosione della bomba era talmente intenso che nessuno poteva sopravvivere nell'area che era stata il bersaglio diretto. Ma in una zona più periferica c'erano dei sopravvissuti ed erano coperti da queste terribili ustioni che nessuno al mondo sapeva come curare, dal momento che erano ustioni provocate dalla bomba atomica in una frazione di secondo. Una cosa quasi inconcepibile. Quel giorno il cielo era limpido e soleggiato, poi di colpo, dopo un bagliore improvviso, si oscurò. Tutto divenne cupo come la pece. Come nella descrizione biblica della fine del mondo, il sole diventò nero e le stelle caddero. Ed è proprio la sensazione che quella profezia si stesse avverando, quello che vissero quelli che erano presenti in quel momento. Il 6 agosto 1945 avevo 14 anni e frequentavo una scuola a 1,5 chilometri dall'epicentro dell'esplosione. Con i miei compagni ero nel campo sportivo ad attendere il saluto del nostro preside. Vedemmo un aereo sorvolare la città, ma ne seguimmo tranquillamente il volo con lo sguardo perché non era stato dato alcun allarme. All'improvviso echeggiò un boato e tutto diventò buio. Solo quando il fumo si dileguò mi resi conto che lo spostamento d'aria mi aveva fatto fare un salto di almeno 10 metri. La scuola era crollata e così pure le case tutt'attorno. Hiroshima non esisteva più. Corremmo verso il fiume e io mi accorsi che stavo perdendo la pelle a brandelli dal viso, dalle braccia e dalle gambe, sino alla carne viva. Quel giorno non c'era neanche una nuvola e io stavo nuotando nel fiume con alcuni amici. Un paio era rimasto a riva e furono loro ad avvisarci che stava avvicinandosi un grande aereo. Uno vide anche scendere un paracadute rosso. Eravamo appena usciti dall'acqua quando il cielo diventò nero. Avvertii una vampa di calore e un dolore acutissimo. Il tempo sembrò fermarsi. Cercai di respirare, ma mi sentivo soffocare. I miei pantaloni stavano bruciando, ma quando cercai di spegnerli, mi accorsi che la pelle delle mani si era liquefatta. Uno di noi, quello che aveva visto il paracadute, fu investito in pieno dalla vampata. E in pochi attimi il suo corpo si carbonizzò davanti ai miei occhi. Ricorderò per sempre la sua bocca rossa con i denti bianchissimi, come un frutto di melograno spaccato a metà. Alle 8:15 fu lanciata la bomba e in pochi secondi migliaia di persone tacquero per sempre. E quel silenzio terribile si ruppe poco dopo, spezzato dalle urla dei sopravvissuti. E proprio loro da allora hanno un unico scopo: raccontare la loro esperienza per fare in modo che nessuno le dimentichi. Circa 10.000 bambini avevano perso sia il padre che la madre. Scorazzavano nella città distrutta, rubando, depredando, uccidendo. Avevo 12 anni. Ero appena uscita di casa quando vidi una luce accecante. Avvertii un intenso dolore alla spalla, poi il buio. Avevo fatto pochi passi quando sentii un flebile lamento e vidi un bambino infilzato nella lancia di un cancello. Morì mentre singhiozzando cercavo di aiutarlo. La mia casa era stata distrutta. Dei miei genitori nessuna traccia. Solo alla fine di agosto riuscii a trovare i loro resti. Le condizioni di mio marito peggioravano. Le sue mani sembravano trasparenti. Un medico dell'ospedale della Croce Rossa mi disse: se non gli faremo delle trasfusioni di sangue, morirà entro 10 giorni. Purtroppo noi non abbiamo sangue disponibile. Mi indicò delle persone che vendevano il proprio sangue. Per una trasfusione bisognava pagare 30 chili di riso. Non vi dirò come sono riuscita a procurarmi quei chili di riso. A Hiroshima è stato costruito un museo che raccoglie le poche cose che sono rimaste dopo quella furia devastatrice. Sono poche cose, frammenti di muri, brandelli di vestiti, oggetti deformati. Sono solo piccole testimonianze che però restituiscono il dramma che la città ha vissuto. Ne parla Akiro Takasaki, che ne è stato direttore. Il Museo della Pace di Hiroshima fu aperto in quello stesso tragico agosto del 1945. Il primo direttore fu Nagaoka Shogo, che subito dopo la bomba aveva cominciato a raccogliere in città oggetti deformati dall'esplosione. Quel materiale fu la prima acquisizione del museo. Ci sono statue di cera che ricreano il momento dell'esplosione. Tra esse, quelle di 3 ragazzini con gli stessi abiti brucecchiati e a brandelli che portavano quella mattina. Li hanno voluti donare al museo i parenti di quelle 3 piccole vittime. E ci sono foto di corpi umani straziati, carbonizzati o ustionati. Ma soprattutto commovente per me è un triciclo. Il bimbo che lo guidava svanì nell'esplosione. I genitori seppellirono il triciclo in mancanza del corpo, ma di recente hanno deciso di donarlo come simbolo al nostro museo. Quella mattina un lampo di fuoco ha lasciato l'ombra di qualcuno su un solido blocco di granito. Su gradini incrinati di pietra, il sangue denso fluito da intestini liquefatti ha lasciato una macchia bruciacchiata. Oh, quella mattina. L'esplosione del 6 agosto del 45 ha gettato un'intera città nella disperazione e nel dolore. Migliaia di storie raccontano dolore e sofferenza e a volte anche coraggio e desiderio di resistere, come quello di Sadako Sasaki, una bambina diventata un simbolo. Sadako correva allegra fra le canne. Quando a sera abbiamo riunito i bambini per tornare a casa, ho notato che Sadako aveva le mascelle un po' gonfie. Gli ho domandato cosa avesse. Nulla, mi rispose. Non è più venuta a scuola. Quando i genitori di Sadako ci portarono la bambina, i medici non ebbero dubbi. Quel gonfiore alle mascelle era un chiaro sintomo di leucemia. Le analisi confermarono la diagnosi. Sadako, a differenza di molti degenti, comprese subito di essere malata gravemente, ma non perse la sua serenità. La leucemia ha degli alti e bassi, e così, quando stava meglio, il sabato e la domenica la mandavamo dai suoi genitori. Indossava il suo kimono da bambina e usciva felice dall'ospedale. In agosto Sadako peggiorò e non poté più andare dai suoi. Guarirò, continuava a ripetermi, ma non sorrideva più. Una leggenda giapponese afferma che chi riesca a fare 1000 gru piegando e ripiegando dei quadratini di carta riuscirà a realizzare il suo più grande desiderio. Quello di Sadako era vivere. Così si mise a fare le gru di carta. Con aria assorta fabbricava le sue gru contandole una a una e infilandole 10 a 10 in un filo di cotone. Morì il 25 ottobre 1955. Aveva fatto 644 gru. A Hiroshima è stato costruito un grande mausoleo che raccoglie le ceneri dei morti che non sono stati identificati. Sul mausoleo c'è scritto: riposate in pace, perché l'errore non si ripeterà. E allora l'obiettivo della città è stato quello della ricostruzione. Kenzo Tange, uno dei più importanti architetti contemporanei che a Hiroshima aveva studiato da giovane, torna dopo l'esplosione per collaborare alla rinascita della città. In quel tempo lavoravo all'Istituto di Architettura dell'Università di Tokyo e riuscii a persuadere molti colleghi a partire con me. Era passato solo un anno dalla bomba e la paura delle radiazioni atomiche era ancora viva, ma andammo lo stesso. Non si trattava solo di fare un sopralluogo, ma di fermarsi a lungo nella città. Dovemmo portarci appresso il riso e passammo molti mesi lavorando in baracche costruite per noi dal comune. In quelle baracche passavamo anche la notte. A Hiroshima non era rimasta in piedi neanche una casa. Perfino negli edifici in cemento armato aveva resistito soltanto lo scheletro. L'interno era tutto bruciato. A Hiroshima si è compiuta per la prima volta una tragedia che, spero, l'umanità non sia mai più chiamata a vivere. La volontà di partecipare alla ricostruzione di Hiroshima come città simbolo della pace è stata un fortissimo sentimento, sia per i sopravvissuti del luogo, sia per tutto il popolo giapponese. Fu allora che nel nostro paese si diffuse per la prima volta, spontaneamente, il motto No More Hiroshima, mai più un'altra Hiroshima, per esprimere il monito e la speranza che una simile tragedia non abbia mai più a ripetersi. Subito dopo l'esplosione, i primi a entrare in città furono gli operatori di una truppa americana che dovevano documentare la sconfitta del Giappone e a cui era stato messo a disposizione un intero treno. Nome in codice della missione: Casper. Il loro filmato per 38 anni è stato nascosto negli archivi del Pentagono. Ma ascoltiamo Daniel McGovern che girò quelle immagini. Horrendous. Non c'era più niente. Era come se un gigantesco maremoto si fosse abbattuto sulla valle e avesse spazzato via tutto quello che esisteva sulle colline e ai piedi delle colline, distruggendo tutto quello che trovava sul suo cammino. Ricordo di aver girato una scena in cui un gruppo di donne giapponesi rovistavano in cerca di cibo in un barcone pieno di rifiuti. Quando si sono accorte che le stavo fotografando, sono scappate via, erano imbarazzate, stavano cercando qualcosa da mangiare. Ci dicevano che bastava arrampicarsi su per la collina o guardare tra i cespugli. Lì trovavamo qualcuno seduto, assolutamente immobile, come se fosse morto, con gli occhi sbarrati. E poi c'erano dei casi gravi, persone che sanguinavano perché il corpo si apriva, persone che perdevano peli e capelli, persone con terribili ustioni e... Ho visto di rado un giapponese piangere, anche se soffrivano terribilmente. Degli ustionati, ricordo un caso in particolare, un giovane sdraiato su una brandina. Era ridotto a un ammasso di carne pulsante. La sua schiena mi faceva venire in mente una quantità di pomodori che stessero cuocendo e bollissero. Bollissero. And it reminded me so much of a bubbling mass of cooking tomatoes. Just bubbling. It reminded me so much of a sick animal. Mi veniva in mente un animale malato. One of the strange things about the atomic bomb, the detonation of the atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. A proposito delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, oggi so quanto fu importante che le esplosioni avvenissero a una notevole altezza dal suolo. Se fossero scoppiate a livello del terreno, probabilmente sarebbe stato impossibile entrare in quelle città per secoli. Forse sarebbero addirittura diventate off-limits per sempre. The bomb exploded in the air, then there was a downward surge, then there was a base surge. That's when the bomb. Io non sono un esperto, ma mi hanno detto che al momento dell'esplosione si è creato uno spostamento d'aria verso il basso, che una volta giunto a terra si è propagato orizzontalmente a una velocità impressionante, provocando una enorme devastazione. Then there was the surge came back. Poi quest'onda è stata come risucchiata, fino a formare lo stelo e la testa del fungo. A Hiroshima era come arrivare sulla Luna. Non che sia mai stato sulla Luna, ma ho visto molte foto. Un deserto senza alcuna traccia di esseri viventi. Nel deserto di Hiroshima invece c'erano due stupidi, il sottoscritto e il mio operatore. C'erano delle bandierine a punta, rosse, gialle o verdi. Il rosso significava zona critica, radiazioni, stare alla larga. Il giallo indicava uno stadio intermedio. Il verde, nessun pericolo. È un po' come stare accanto a una stufa rovente. Più ti avvicini e resti lì, più rischi di bruciarti. Lo stesso avviene con le radiazioni atomiche. Le squadre dei radiologi ci avevano detto di non esporci per troppo tempo, di andarcene al più presto. E così abbiamo fatto. Una delle scene più agghiaccianti che ho visto è stata alla scuola elementare di Shirayama. Era un edificio a quattro piani, con due ali laterali e le scale al centro. Parte dell'edificio era crollato e in un angolo c'erano centinaia e centinaia di teschi e piccoli scheletri. Erano tutti bambini uccisi dall'esplosione. Oggi la scuola di Shirayama è diventata un piccolo museo. Di aerei distrutti e di cadaveri nel corso della guerra ne avevo visti tanti, ma quegli scheletri di bambini sono stati l'immagine che mi ha colpito di più. Quel giorno, lo ricordo ancora, era l'8 settembre 1945. Very early, that was about 8 September 45. Dopo pochi giorni anche alcuni giornalisti occidentali riescono a raggiungere Hiroshima per documentare quello che è successo. Ascoltiamo la testimonianza del giornalista australiano Wilfred Burkett. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stato il primo giornalista, e intendo il primo giornalista occidentale, a entrare a Hiroshima pochi giorni dopo la bomba. È stata un'esperienza terribile. Era una giornata nebbiosa e da una certa distanza, nel raggio di circa 700-800 metri, mi sembrava che ci fosse ancora un certo numero di edifici illesi. Ma quando mi avvicinai, tutto intorno non c'erano che macerie e polvere, in quanto diversi edifici e parti di edifici erano stati completamente polverizzati. Ero andato al comando di polizia in compagnia del signor Nagamura, un giornalista dell'agenzia di stampa giapponese di cui mi avevano dato l'indirizzo a Tokyo. Nagamura si era mostrato molto coraggioso ad accompagnarmi alla polizia e a dire che ero un giornalista occidentale desideroso di scrivere un articolo su quanto era accaduto. Ci fu una discussione. e io sentivo che l'aria era pesante. Ma solo molti anni dopo, allorché incontrai di nuovo Nagamura, venni a sapere che la discussione riguardava il fatto che alcuni volevano uccidermi. Per mia fortuna intervenne un ufficiale anziano che disse: «No, se ha rischiato la vita per venire qui in questo momento, dobbiamo aiutarlo perché possa vedere quanto più possibile». Il dottor Katsuvi, che a quel tempo era vice direttore dell'ospedale, mi disse che non aveva la benché minima idea di cosa fosse quella malattia misteriosa. I pazienti presentavano ustioni di terzo grado e lo sapevano come curare le ustioni, eppure nessuna cura sembrava migliorare lo stato di quelle ustioni. Mi disse che in un primo tempo i sintomi sembravano simili a quelli di una carenza vitaminica acuta, per cui avevano cominciato a somministrare dosi massicce di vitamina C, ma poi si erano accorti che nel punto in cui avevano praticato l'iniezione, nel punto in cui era entrato l'ago, la carne era andata in putrefazione. «Siamo completamente disperati», mi disse. «Credo che tutti quelli che ha visto e che vedrà moriranno. Non si salverà nessuno». Mi portarono dentro e mi fecero visitare alcuni reparti dove i pazienti si disintegravano fisicamente davanti ai miei occhi. Generalmente i pazienti presentavano delle macchie nere e blu, specialmente attorno al collo, accompagnate per lo più da febbre altissima. Poi comparivano altri sintomi che portavano alla caduta dei capelli. La qualcosa era considerata l'ultima fase prima della morte e l'intero ciclo era rapidissimo. In breve tempo vidi più che abbastanza e devo dire che il dottor Katsuvi fu estremamente meticoloso nel descrivermi quella che in seguito divenne nota come malattia da radiazione residua. Il dottor Katsuvi insistette sul fatto che molti dei pazienti ricoverati e che stavano morendo non si trovavano nemmeno a Hiroshima al momento dell'esplosione. Era gente giunta in città dai villaggi vicini per vedere cosa ne era stato dei loro parenti. Il dottore era disperato. Mi disse: «Sono cristiano. Capisco che la guerra è una cosa orrenda e che le nostre truppe hanno commesso molte atrocità in diversi campi di battaglia. Ma qui siamo al cospetto di un qualcosa rivolto interamente contro la popolazione civile e del tutto nuovo nella storia della guerra». Quanto a me, mi sentivo umiliato. Umiliato nella mia dignità di uomo di fronte a quanto vedevo. Oggi Hiroshima è una città moderna con più di 1 milione di abitanti, ma che non ha dimenticato quello che ha vissuto, una città che è diventata il simbolo di quello che non deve succedere mai più. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.